Quali sono le esigenze che avete tentato di intercettare realizzando questa guida? L'esigenza che abbiamo cercato di coprire con questa piccola guida è stata proprio quella di dare informazioni. Noi come associazione Etnomedia crediamo che l'immigrazione vada aiutata, visto che fermata non è possibile fermarla per buona pace di tutti coloro che la vorrebbero fermare, e quindi per fare in modo che crei meno conflitti possibile, la prima cosa da fare è dare informazioni su queste persone quando arrivano nel nostro paese, nella nostra città, come devono comportarsi e anche come devono trovare una qualità della vita che non sia che sia quantomeno decente. Per cui molto semplicemente abbiamo cercato di dare una serie di indicazioni e di indirizzi dove rivolgersi ai migranti. Quindi ci sono in questa piccola guida tutta una serie di indirizzi dove possono trovare la prima assistenza, quindi le mense gratuite che ci sono a Milano, i dormitori pubblici, financo gli indirizzi dove è possibile fare le docce pubbliche, e poi dove si può trovare assistenza medica, dove andare a rivolgersi per trovare le associazioni di migrantes, non soltanto le associazioni di prima assistenza ma anche le associazioni culturali. E poi, insomma, man mano che questi nuovi cittadini riescono a organizzarsi, avranno tutta una serie di esigenze, quindi anche gli indirizzi dei posti dove si fa telefonia internazionale, i siti internet dove è possibile fare discussioni o aiutarsi reciprocamente, per arrivare fino agli indirizzi di ristoranti o luoghi di divertimento. Senta, avete avuto già delle risposte su come è stata recepita questa guida da parte delle comunità? Sì, perché ad alcune comunità organizzate ovviamente è stata distribuita, perché ovviamente questa guida è utile soltanto se i nuovi cittadini la trovano, e quindi è distribuita ovviamente gratuitamente, è distribuita alle associazioni di volontariato che fanno questo tipo di servizio, ai consolati, insomma in tutti i posti dove ovviamente si possono intercettare questi nuovi cittadini. Per cui abbiamo visto che sia i consolati sia le associazioni culturali ed immigrantes l'hanno recepita molto favorevolmente, e ci hanno detto che ce ne richiedono continuamente delle copie, perché effettivamente hanno visto che è uno strumento utile soprattutto. Senta, invece, capovolgendo un po' il punto di vista, come giudica l'informazione che un'utenza italiana, i cittadini italiani ricevono riguardo ai flussi migratori, ai fenomeni di migrazione in Italia? Lo sappiamo, purtroppo è un'informazione che molto spesso è basata solo ed esclusivamente sulla cronaca nera. Etnomedia è nata anche nel suo piccino proprio per cercare di rovesciare un po' quella che è la comunicazione con cui il cittadino italiano viene bombardato. Sappiamo che il cittadino extracomunitario che commette un reato finisce in prima pagina sui giornali locali di cronaca nera, ma le centinaia e centinaia di cittadini che invece lavorano tranquillamente, onestamente, non fanno ovviamente notizia. Per cui proprio per favorire una equilibrata informazione è giusto prendere anche a calci nel sedere chi delinque, ma è giusto anche far sapere che è una percentuale assolutamente piccolissima rispetto a tutte le persone che sono in mezzo a noi, che sono cittadini esattamente come noi e che lavorano esattamente come noi. Quindi insomma va un po' riequilibrata, perché l'informazione nazionale e locale ovviamente tende invece a presentare l'immigrato o il migrante come un delinquente. Questo purtroppo è visibile ed evidente a tutti.